Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana e allora i temi di questa giornata economico-finanziaria. Di nuovo l'occupazione al centro, non solo i dati a livello europeo ma anche gli sviluppi, devo dire pochi, sulla vicenda Fiat e Alcoa, e invece purtroppo la lista dei gruppi che ricorrono alla cassa integrazione o comunque che minacciano esuberi si allunga, e come anche i nostri GR vi hanno raccontato aumentano in parallelo le manifestazioni, intese non tanto come scioperi ma quanto come gli operai della Catel Lucent di Battipaglia che si sono asserragliati nello stabilimento e hanno minacciato di darsi fuoco, o i lavoratori di Fincantieri che hanno messo in atto un blocco stradale oggi, mentre a Roma un'altra manifestazione di un migliaio di dipendenti dell'Antonio Merloni. Questa è la lista della cronaca aggiornata. Parleremo però in apertura anche di un'analisi che è presente oggi sul Sole 24 Ore del lunedì. Sfratti e ingiunzioni, è un bilancio del 2009, la mappa dei ricorsi presentati, quindi giustizia civile, nel 2009. Insomma, l'aumento degli sfratti e delle istanze di fallimento, scusatemi, è stato del 23% in media, con punte del 26% nel nord. I pignoramenti sono aumentati del 19%, record a Roma più rispetto alla media nazionale, e anche lì sfratti per morosità cresciuti del 15% e i decreti ingiuntivi anche in questo caso cresciuti di circa il 17%, anche i pignoramenti sono aumentati del 13%, con differenze molto alte tra regione e regione e anche tra città e città. Milano al record delle istanze di fallimento, Roma il record della crescita dei pignoramenti, Vicenza il maggior aumento degli sfratti, più 80% per quello che riguarda gli sfratti per morosità. Poi parleremo delle borse. Allora, le borse oggi sono positive, va detto Milano di uno 0,90%, Parigi dell'1,3%, Francoforte dell'1,2%, Londra di mezzo punto percentuale. L'America è invariata, devo dire che anche Madrid oggi è abbastanza tranquilla, leggermente positiva. Chi invece cala bruscamente è di nuovo la Grecia, anche qui però non vediamo nuovi motivi, nuove agenzie, il calo è comunque arrivato a oltre il 3%. Dopodiché faremo anche il punto su due importanti manifestazioni che siamo riusciti a seguire molto poco la settimana scorsa con quello che capitava sui mercati. Mi riferisco alla Fiera Agricola di Verona e al Madexpo di Milano. Hanno chiuso i battenti nel fine settimana le due manifestazioni, sarà l'occasione anche per fare un bilancio. Come sempre, per quello che riguarda i temi, tratteremo anche alcune notizie di carattere societario e sono usciti i dati del gruppo energetico Edison, ne parleremo alle 18:15. Per quello che riguarda poi l'euro, vedo già alcune domande, siamo a quota 1,37, non si è indebolito. Oggi la giornata è un po' più tranquilla sui mercati. Evidentemente le rassicurazioni arrivate dal G7, che si andrà avanti a lavorare su nuove regole e si chiederà l'impegno delle banche in senso lato, hanno apparentemente tranquillizzato oggi i mercati. Tra i titoli segnalo bene soprattutto CIR più 3,7, Intesa più 3,5, Eni più 2,80, Mondadori più 2% come Fondiaria e Tenaris, ma anche Geox. Bene anche Generali più 1,5 come Prismian, Enel più 1,1, Campari più 0,80 come Fiat. Fronte opposto, A2A meno 4% come Finmeccanica, Saipem meno 2,60, Mediolanum meno 2,3, Impregilo meno 2,1 come Lottomatica, 1,5% lo perde Pirelli e anche Parmalat, l'1,1 il calo di Talcementi, Ansaldo e Unicredito, ma anche Banco Popolare. Quindi misti oggi bancari, visto che anche il Monte dei Paschi perde lo 0,6%. Allora, l'ultima notizia, non è una notizia, l'ultima nota per voi è il numero per gli SMS 349-238-6666, le notizie in breve. Leggermente in rialzo il petrolio a $72 al barile. Per quello che riguarda le società, ma ne parliamo più avanti, Edison ha chiuso il 2009 con un utile netto in calo del 30% a 240 milioni di euro, dice la società, anche a causa della pressione fiscale. Il margine operativo è calato del 10%, e però è in linea con quello dell'anno prima, del 2008, al netto degli effetti straordinari. Comunque il dividendo sarà di 4 centesimi, 2 di euro contro i 5 centesimi di euro dell'anno prima. E tra l'altro, siccome la crisi è manifesta anche per grandi gruppi come Edison, il consiglio di amministrazione di Edison ha deciso di tagliarsi lo stipendio, meno 10% per il presidente, meno 10% nel stipendio fisso e meno 25% in quello variabile per l'amministratore delegato Umberto Quadrino. La saga, o meglio l'incubo Toyota. Che cosa è successo oggi? Toyota richiamerà anche altri modelli ibridi, quelli a doppia, diciamo, alimentazione. La SAI e la Lexus HS250H, che montano l'impianto in cui praticamente la batteria si ricarica frenando, che hanno la stessa tecnologia alla base dell'impianto frenante della Prius, sono arrivate sul mercato praticamente nemmeno un anno fa, tra dicembre e luglio del 2009. Sarebbero interessate circa 4.000 unità e 10.000 vetture all'estero. Però nel frattempo Toyota ha ripreso la produzione in Nord America degli 8 modelli sospetti di difetti al pedale dell'acceleratore. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa olandese ANP, vi sarebbe stato un accordo per arrivare alla scissione tra il colosso bancario olandese ABN AMRO e l'ex colosso bancario britannico Royal Bank of Scotland. Dico ex perché se l'è comprata praticamente lo Stato. Penso che si sia all'85% della partecipazione statale in Royal Bank of Scotland, che era praticamente fallita se non fosse intervenuto lo Stato britannico. L'operazione che portò Royal Bank of Scotland assieme alla banca spagnola Santander e al gruppo belgo-olandese Fortis a comprarsi ABN AMRO fu l'ultima grande operazione bancaria prima del crollo. Da molti venne definita come una follia, nel senso che con un sistema finanziario già potentemente minato nelle fondamenta si fece un'operazione costosissima per queste tre banche. Comunque, secondo quanto riferisce l'agenzia olandese, si sta arrivando a una scissione e quindi a una divisione, e ABN AMRO tornerebbe a questo punto a essere autonoma. Allora, la disoccupazione nell'area euro è ferma a dicembre, per fortuna, in Europa, scusatemi, è all'8,8%, nell'area euro è al 10%, anche qui ferma in Italia all'8,5%, è aumentata dello 0,2% rispetto a novembre, dell'1,5% invece rispetto a dicembre del 2008. E poi notizie che altre volte vi abbiamo raccontato, perché esistono vari modi per misurare la febbre, vari termometri per misurare la febbre di questa crisi. Alcuni citano la vendita di rossetti come tipica ricaduta di un effetto recessivo, la lunghezza delle gonne delle donne, abbiamo analizzato vari elementi. Beh, c'è anche il numero dei brevetti, che per la prima volta dal 1978 cala. L'anno scorso è calato del 4,5%, più forte il calo dei brevetti registrati a Ginevra, dove c'è l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. Dicevo, più forte il calo nei paesi industrializzati, mentre sono cresciuti i numeri di brevetti in arrivo dall'Asia, Giappone, Corea e Cina, che la Cina è salita al 5° posto. L'Italia ha avuto anch'essa un calo del 5,8%, è 11ª con 2.718 brevetti depositati l'anno scorso. Dicevamo della borsa greca meno 3,86%, mentre il sindacato dei dipendenti pubblici greci mercoledì organizzerà uno sciopero generale e ha detto di essere pronto a indire nuovi scioperi, nel caso specifico il 24 febbraio, se le misure fiscali e pensionistiche che il governo prepara si riveleranno inaccettabili, viene aumentata in Grecia per far fronte alla, al rischio bancarotta, l'età pensionabile, vengono aumentate anche le tasse. La minaccia sul 24 febbraio riguarda anche il settore privato. In Spagna nel frattempo si è scoperto che il numero delle imprese e delle famiglie insolventi rispetto al 2008 è aumentato dell'80%. Non sono tantissime come numero, nel senso che si parla di 6.000 famiglie e imprese che hanno dichiarato di non poter far fronte ai pagamenti, e mentre 1.000 cittadine si sono dedicate in bancarotta. Nel caso specifico sono 1.000 cittadine e 4.980 imprese. La cosa più importante è che l'80% in più rispetto al 2008. La Spagna, ricordo, è l'unico paese tecnicamente dell'area euro a non essere ancora uscito dalla recessione, cioè non avere ancora avuto un segno più nell'andamento del PIL. La vicenda Fiat. Allora, mentre oggi Sergio Marchionne ha ricordato come l'avventura americana della 500 inizierà dal Messico, oggi Marchionne ha incontrato a Torino il presidente messicano Felipe Calderon, e poi in Messico il presidente messicano Felipe Calderon, per poi portarlo in visita allo stabilimento di Toluca, dove nella fabbrica della Chrysler, che occupa circa 2.000 persone, verrà prodotta la 500 destinata a tutto il mercato del Nord America e del Sud America. Le prime auto usciranno dalle linee di Toluca a dicembre. Nel frattempo, sulla vicenda Termini Imerese, su cui oggi come approfondimento non torniamo, tanto abbiamo espresso ampiamente vari punti di vista e anche le vostre critiche venerdì, dicevo, su Termini Imerese oggi il ministro Scajola, nel annunciare il tavolo del prossimo 5 marzo, tavolo dell'auto, ha detto: abbiamo ricevuto tra le 8 e le 10 offerte e comunque c'è un anno e mezzo di tempo. Diciamo, non è proprio così, nel senso che la Fiat chiuderà l'impianto a fine 2011. È chiaro che la soluzione va trovata un po' prima, ma da qui alla chiusura manca un anno e mezzo. Sentiamo Scajola. Con la Fiat il discorso su Termini è chiuso, ma la Fiat concorda con noi che agevolerà, non ostacolerà, aiuterà una soluzione diversa, e abbiamo diverse offerte, 8, 9, 10 offerte che stiamo valutando al Ministero dello Sviluppo Economico, che presenteremo il 5 di marzo al tavolo dell'auto che abbiamo inserito al Ministero dello Sviluppo, per valutare quale migliore di essa possa garantire i posti di lavoro. Abbiamo tempo, un anno e mezzo prima che cessi la Fiat. Comunque avete sentito il ministro Scajola dire, per quello che riguarda il Termini Imerese, la vicenda è chiusa, e ripeto qui senza ogni volta però partire con le polemiche, che il Termini Imerese sarebbe stato chiuso a fine 2011 lo si è scoperto dal piano industriale di Fiat, che ormai ha più di un mese, se non ricordo male metà gennaio, una cosa del genere. Per cui insomma, da lì l'annuncio a fine 2011, poi le polemiche si sono scatenate anche per altri motivi, ma insomma la chiusura Scajola la dà per definitiva, o perlomeno l'abbandono di Fiat a Termini Imerese. Altra cosa è capire chi ne prenderà il posto, quanto Fiat aiuterà queste chi prenderà il posto di Fiat a Termini Imerese, e che cosa andranno a fare il soggetto o i soggetti che occuperanno l'area industriale. E sempre sulle proposte arrivate, oggi la presidente Confindustria Marcegaglia, a margine della Mobility Conference che si è tenuta a Milano nella sede dell'Asso Lombarda, ne parleremo poi nella seconda ora del programma, ha detto: beh, alcune proposte sono più che interessanti. Io credo, come ho già avuto modo di dire, che Termini Imerese purtroppo è uno stabilimento che, per problemi logistici, per problemi di efficienza, è uno stabilimento che non riesce a stare in piedi. Adesso il vero tema è reimpiegare le persone, non perdere i posti di lavoro in un momento delicato come questo. Quindi ci sono delle proposte, bisogna scegliere proposte concrete, vere, che possano stare in piedi, che possano essere di mercato. Mi pare che però tra le 8 e 9 ci siano alcune iniziative degne di attenzione. E ancora, anche Mercedes Bresso, che è presidente della regione Piemonte, chiede un incontro alla Fiat per parlare degli stabilimenti piemontesi. Occorre tener conto di tutto il sistema Fiat e non solo di Termini Imerese, ha detto la Bresso, che tutto il sistema Fiat e non solo Termini Imerese è a rischio, mentre sulla vicenda Alcoa, quindi lo stabilimento, gli stabilimenti di Portovesme a Cagliari e di Fusina a Mestre, il ministro del welfare Sacconi ha detto di essere moderatamente ottimista sulla vicenda e sull'esito della vicenda. Noi siamo determinati, ha continuato Sacconi, a salvaguardare produzioni che hanno tutti i titoli per continuare nel nostro paese. Duro invece il giudizio su quanto deciso dalla GlaxoWelcome, colosso farmaceutico mondiale, che a Verona aveva la sua sede italiana principale, un centro di ricerca importante a livello europeo, 350 ricercatori che se ne andranno a casa. E con motivazione che obiettivamente stiamo cercando di capire anche noi, sono 550 ricercatori, scusatemi, visto che ufficialmente non avrebbero raggiunto l'obiettivo di crescita degli utili al 14%, gli utili si sono fermati a un più 11%. Vorrei far notare che era il 2009. Comunque il ministro Sacconi ha detto: credo sia colpevole distruggere un pezzo importante della ricerca mondiale basato storicamente in Italia, a Verona, sulle neuroscienze. E poi l'agitazione a Battipaglia, quattro operai della Cartel Lucent, lo ricordavamo, si sono dalle 6 di mattina sono asserragliati all'interno dello stabilimento e minacciano di darsi fuoco. No al piano industriale che prevederebbe la riduzione di posti di lavoro. E tra l'altro il piano, c'è un nuovo piano industriale che le rappresentanze sindacali hanno però respinto, prevede la disponibilità da parte di un gruppo di imprenditori a rilevare il settore manifatturiero, con la conseguente scissione del ramo del settore ricerca della Cartel Lucent. E poi i lavoratori di Fincantieri, che hanno messo in atto un blocco stradale a Roma, un migliaio di dipendenti di Antonio Merloni che hanno manifestato sotto la sede del Ministero dello Sviluppo Economico. Cosa succede ad Antonio Merloni? Un gruppo da tempo in amministrazione controllata, 3.000 dipendenti in Italia, 6-7.000 nell'indotto, gli stabilimenti sono nelle Marche, in Umbria e in Emilia. Il fatto di essere in amministrazione controllata preoccupa molti dipendenti. Fincantieri, le commesse ci sono ma solo fino al 2012, non ce ne saranno di nuove quest'anno, e quindi se non ce ne saranno di nuove quest'anno scatterà la cassa integrazione. E quindi una bomba sociale per i 1.150 addetti alla Fincantieri, che comunque avrebbero diritto alla cassa integrazione, ma non i 3.000 lavoratori dell'indotto che non avrebbero ammortizzatori sociali. E adesso parliamo dei conti della nostra manovra finanziaria 2010, il budget del Tesoro, ma anche di alcuni altri segnali di crisi, e soprattutto di quello che ha scoperto Sole 24 Ore andando a guardare ingiunzioni, sfratti e morosità e anche fallimenti che il 2009 è stato dal punto di vista della giustizia civile. Eh sì, perché oggi abbiamo scoperto, per esempio, che dopo il boom del 2000 le immatricolazioni alle università hanno inesorabilmente cominciato a scendere. In 5 anni perse 40.000 matricole, erano 124.000 le matricole universitarie nel 2005, sono scese a 286.000. Cioè dal 56% dei ragazzi con 19 anni che si iscrivevano all'università, il 73% dei diplomati, si è scesi al 47%, nemmeno il 60% dei diplomati. E poi, la cosa che ha lasciato più perplessi è vedere come le matricole scendono portandosi appresso i giovani delle classi sociali più deboli. Ci si iscrive meno all'università perché la crisi, questo è il titolo. Nel 2000 un neo iscritto su 5 era figlio di persone con al massimo la quinta elementare, quindi il 20% compiva quella, diciamo, prendeva quell'ascensore sociale di cui molte volte abbiamo parlato, diciamo, mobilità intergenerazionale, essendo figlio di persone che non avevano oltre la quinta elementare. Questo numero, cioè il 20%, è sceso nel 2007 al 13% e adesso siamo al 12%, dal 20% al 12%, e non è una bella notizia per un paese, come spesso abbiamo detto, bloccato nella sua mobilità sociale. Allora, l'altra cosa che ci ha fatto così guardare con attenzione ai dati è quanto riporta oggi Sole 24 Ore su la giustizia civile in Italia, istanze di fallimento, pignoramenti, sfratti, decreti ingiuntivi. Andrea Maria Candidi, buonasera. Buonasera. Allora, andiamo con noi, insomma, oggi trovate tutto su Sole 24 Ore del lunedì, ma tutto è in aumento, dico io, già istanze di fallimento più 23%, pignoramenti immobiliari più 19%, pignoramenti immobiliari più 13%, sfratti per morosità più 14%, decreti ingiuntivi con vari tipi di insolvenza più 17%. La cosa interessante è che in realtà ci sono molte differenze regionali. Andiamo con ordine. Le istanze di fallimento, chi ha il record? Beh, sicuramente il nord. Evidentemente lì quello che conta è il tessuto economico, che è sicuramente più sviluppato rispetto al resto del paese, quindi il nord ha il record delle istanze di fallimento presentate nel corso del 2009 con il 26%. Dalla parte opposta, al sud e isole, siamo al 15%, quindi 15 imprese su 100 si sono trovate coinvolte in un fallimento, al contrario del nord. Ecco, un dato analogo anche sui pignoramenti mobiliari, cioè non della casa, di altri oggetti. Esatto. Anche lì c'è una differenza molto alta tra nord e sud, soprattutto nord e centro-sud. Sì, anche lì è legato, vale più o meno lo stesso discorso per i fallimenti. I pignoramenti immobiliari possono riguardare tanto beni mobili quanto conti, depositi, cose simili. Di conseguenza, laddove l'economia è più sviluppata, è probabile che ci sia più movimento e quindi che sia più in difficoltà poi alla fine. Ecco, a sorpresa, almeno per me, invece sui pignoramenti immobiliari, tra l'altro sui pignoramenti immobiliari, cioè non delle case, il record va a Roma, ma sui pignoramenti immobiliari, quando viene pignorata la casa, c'è un dato un po' in controtendenza, bassissimi al sud, sì, ma una cosa proprio il 2,5% in più, al nord il 12,5%, chi è che ha il record a questo punto? Dunque, al centro, per quanto riguarda, allora, il centro sicuramente è il record con il 21,1% di aumento, perché questi dati che stiamo dicendo sono di aumento rispetto all'anno precedente. Il record sui pignoramenti immobiliari ce l'ha sicuramente te lo dico subito, Pesaro, eccolo qui. C'è il centro Italia sicuramente. Il centro Italia, Roma comunque segna un dato di più 20%, che considerati i numeri romani è sicuramente certo, è grosso, significativo. Sì, e poi il centro è più esposto, diciamo, ha avuto più dati rispetto al nord, anche questo è interessante. Sì, è vero, il nord è leggermente sotto la media, che è il 13,4%, il nord si posiziona al 12,5%, il centro al 21,1%. Ma se vuoi, uno dei dati più significativi, forse secondo me, riguarda, se posso tornare un attimo indietro, ci mancherebbe, di fallimento. Sì. Laddove per esempio noi abbiamo parlato con il presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Milano, il quale ha segnato questa cosa, cioè lui ha detto, dice, guardate che da quest'anno rispetto agli anni passati l'insolvenza per quanto riguarda le imprese comincia a riguardare anche le grandi imprese, anche grandi gruppi, società quotate in borsa. Questo è stato un po' il segno che questa crisi è piuttosto profonda. Sì, tra l'altro i pignoramenti immobiliari a Milano hanno fatto più 99%. Sono raddoppiati. Raddoppiati. Sono raddoppiati. Quando si vanno a pignorare oggetti di altro genere. Mentre su Roma dicevi il record, alti pignoramenti di immobili più 20% a 1923 l'anno scorso. Sì, per sì, dare un'idea, a Milano hanno fatto più 18% sì, a 3293. Il sud su questo scompare, cioè non so, a Salerno meno 11. Sì, dati non pervenuti in alcuni casi, è interessante. Sì, assolutamente, c'è una differenza lì, presumibilmente l'esposizione debitoria delle famiglie non riguarda i mutui, ma riguarda, che so, piccoli acquisti. Sta di fatto che sui decreti ingiuntivi, e quindi quando un cittadino privato può essere chiamato ad adempiere a un obbligo economico che ha preso, in quel caso invece il sud aumenta. Ecco, quindi infatti lì volevo arrivare, perché gli sfratti per morosità Anche qui la linea media è abbastanza più simile, nord e centro uguali, più 14%, sud molto basso, 5%. Insomma, probabilmente c'è anche una maggiore difficoltà a fare rispettare la morosità, dico io, al sud, ma con un caso a Vicenza, più 80%. Sì, lì diciamo che gli strati per morosità colpiscono soprattutto le grandi città, le città con alta tensione. Non è il caso di Vicenza, però, non me ne vogliono i vicentini. Ti dico la verità, il caso di Vicenza ha sorpreso un po' tutti. La cosa di Vicenza dovrebbe essere legata a una particolare situazione che però, ti dico la verità, io non ti saprei spiegare. Quasi una distorsione statistica, va bene. Sì. No, perché vediamo 906 sfratti più 80%. Sì. Per dare un'idea, sono stati 6.200 a Milano, sì, 7.300 a Roma, sì, più 9% a Milano e più 10% a Roma. Che nei centri medi gli spostamenti possono essere alti, ma i numeri sono più bassi. Più bassi, certo. La cosa, no, lì il dato che va visto è il dato complessivo. Mm. Gli sfratti per morosità nel 2009 sono stati 33.000. Però. Attenzione, i dati che noi stiamo citando riguardano sostanzialmente un terzo del territorio italiano, perché i tribunali che hanno risposto alla nostra indagine coprono sostanzialmente un terzo del territorio. Cioè i capoluoghi principali? Esatto, sono i tribunali principali. Questo vuol dire che questi dati, per esempio i 33.000 sfratti, istanze di sfratto, compagine di sfratto richieste, riguardano un terzo del territorio. Questo vuol dire che sono 100.000 sostanzialmente. Sì, o magari meno, o magari di più, ma insomma, ci avviciniamo a quella cifra lì. Ultimo elemento, i decreti ingiuntivi. Qui invece vediamo il centro bassissimo e il sud molto alto, come il nord, più 20%. I decreti ingiuntivi con appunto un sud che vede un aumento del 44, del 7% anche a Salerno, a Roma più 44%, più 7% Roma, ho sbagliato io, e più 44% Palermo. Vediamo appunto molte città del sud avere questo dato molto forte. Come mai al sud? È perché lì probabilmente, come dicevamo, è probabile che l'economia si muova, cioè la famiglia si muova più facendo piccoli acquisti, piccoli prestiti presso piccole società finanziarie. In quel caso è proprio perché la differenza la si nota con i pignoramenti immobiliari che praticamente scompaiono al sud, quindi evidentemente l'economia del sud si muove più verso i piccoli prestiti che poi le famiglie fanno, si impegnano, che poi non riescono a onorare e quindi si trovano poi il decreto ingiuntivo. L'ultima battuta, perché siamo in chiusura, i magistrati e i tribunali che voi avete sentito, la giustizia civile, si sono lamentati delle risorse, visto che sono tutti in aumento le pratiche e appunto i casi. Sì, questo è il problema che riguarda la giustizia in generale, in particolare quella civile. Sappiamo perfettamente quali sono i numeri dei procedimenti pendenti, 5 milioni sostanzialmente. È chiaro che la crisi, aumentando quel tipo di procedimento che ha a che fare con l'esposizione economica delle famiglie e delle imprese, di sicuro non aiuta, certo, i tribunali nel loro lavoro. Grazie Andrea Maria Candide, Sole 24 Ore. Questi dati della giustizia civile che riguarda i procedimenti di carattere economico, lo dico perché molti in questi giorni ci hanno chiesto al 349-238-6666 perché non parlate del disegno di legge del processo breve. Perché è un tema politico, alcuni di voi dicono ma che effetto avrà? Vedremo cosa uscirà dall'approvazione parlamentare, ma anche perché, se devo dirla tutta, noi più che la giustizia penale, essendo un programma di economia e che si occupa anche e soprattutto di economia reale, interessa la giustizia civile, di cui non si occupa mai nessuno. 5.000 procedimenti arretrati, non ho visto nessun decreto d'urgenza da nessuna parte, camere non riunite, nessun coinvolgimento delle massime istituzioni. La giustizia civile è orfana di qualunque interesse, chissà perché. Comunque adesso il metodo, la pubblicità, poi sentiremo invece quanti soldi hanno ricevuto i vari ministeri dal budget oggi pubblicato dalla Ragioneria dello Stato, dico subito che il taglio è molto pesante sulla scuola, è 1 miliardo di euro a questo punto, aumentano i soldi invece per l'energia nucleare. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dobbiamo leggere i dati sul budget del Tesoro, come promesso, e poi passiamo alla borsa, che, ripeto, ho chiuso con un rialzo dello 0,6%, Parigi più 1,2%, Francoforte più 0,9%, Londra più 0,7%, l'America è sempre invariata. Confermo, peggior titolo A2A, meno 4,3%, Finmeccanica meno 4%, inizia a essere sui 9 euro per azione, Finmeccanica, cioè a rischiare la soglia di 9 euro, 9,29 euro. Miglior titolo Intesa San Paolo più 3,4, c'è una notizia che adesso vi leggiamo appena battuta, CIR più 3,37, Eni più 2,4, Geox più 2,3%. Il budget del nostro Tesoro e poi la borsa. Allora, vale 92 miliardi il budget del Tesoro, 1 miliardo in più del 2009, l'1,2% budget dello Stato, 92 miliardi di euro chiaramente. E questo l'ha diffuso la Ragioneria Generale dello Stato. I maggiori costi, cioè il ministero che assorbirà di più il budget è l'istruzione. 44 miliardi, quasi 43,9 miliardi, quasi la metà dell'intero budget statale. E poi al secondo posto la difesa, 20 miliardi, 21% di tutto il budget statale. E agli ultimi posti invece il Ministero dell'Ambiente, 143 milioni, e il Ministero dello Sviluppo Economico, 243 milioni. Chi ha avuto un calo nelle risorse? A questo punto il dato è ufficiale: i trasporti e le infrastrutture 1 miliardo in meno, ma anche la scuola ha avuto 1 miliardo in meno. Aumentano le risorse per il comparto energia, soprattutto con la voce nucleare. E tra l'altro la voce nucleare, elettrico, energie rinnovabili vede un raddoppio dei fondi a disposizione, più 92%, un aumento degli stanziamenti anche alla ricerca e innovazione, più 30%, tutela della salute più 4% e anche i beni culturali e paesaggistici più 3%. L'istruzione 1 miliardo in meno, dicevamo, e anche tutte le spese che riguardano le amministrazioni dello Stato 38%. Va bene, passiamo alla borsa, va bene, insomma, va bene o non va bene, ma passiamo alla borsa. Devo leggere un sms perché giustamente mi fanno notare che l'Antonio Merloni, solo devo leggerlo ma l'ho perso, notare che l'Antonio Merloni, la situazione si sta risolvendo, ce lo auguriamo assolutamente, vista la manifestazione degli operai dipendenti da Antonio Merloni, commissariata, sembra che debba entrare un imprenditore a breve, eccolo qua, grazie ai capitali di un'azienda di origine cinese, ce lo scrive un ascoltatore che immagino lavori alla Merloni abitando in provincia di Ancona. Gabriele, se ha maggiori dettagli ce li dia. La borsa invece, allora, buona la giornata, la prima giornata della settimana. Intesa San Paolo più 3,4%, ne parliamo come sempre con i colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore, Andrea Fontana, buonasera. Buonasera. Partiamo da Intesa, poi dopo il traffico parliamo degli altri titoli. È uscita qualche minuto fa un'agenzia che dice, che cita una dichiarazione del numero uno di Generali, Giovanni Peressinotto, che ha detto l'ipotesi dello scioglimento del patto di sindacato tra Crédit Agricole sulle varie partecipazioni dentro l'Intesa San Paolo è un'ipotesi credibile, per questo che il titolo si è mosso? Beh, certamente questa era l'attesa, la dichiarazione è arrivata a borsa ormai chiusa, quindi nell'asta. Sì, ma quando arriva a noi qualcuno lo sa già prima. Di chiusura. Certamente l'attesa era questa, che si trovasse una soluzione che per il momento, per la verità, non è ufficiale, ma che sta prendendo corpo. Nel fine settimana diversi quotidiani avevano ragionato sulla possibilità appunto di uno scioglimento di questo patto e anche, per la verità, sulla possibilità sembrerà che Intesa San Paolo cedesse al Credit Agricole alcuni propri asset, in particolare si è parlato della banca dell'Adriatico. La soluzione di questa contesa, che dura ormai da oltre sei mesi, può certamente essere stato l'elemento che oggi ha fatto guadagnare il titolo, che soprattutto con uno scatto nel finale che ha portato Intesa più 3,5. Uno scatto, diciamo, mentre l'Ansa stava scrivendo l'agenzia. Allora, altri titoli, diciamo, oggi della giornata: il peggiore in assoluto, A2A meno 4,3, non in assoluto nei titoli di maggiore capitalizzazione, meno 4,3, e Finmeccanica meno 4, A2A e Finmeccanica. Per quanto riguarda A2A, la presentazione del piano industriale di venerdì non è bastata a frenare i realizzi, diciamo così, le vendite sul titolo. Un piano industriale che alcuni hanno definito, diciamo, coerente con quelli che erano già i numeri dati dall'azienda, ma che sicuramente non ha emozionato particolarmente il mercato. Soprattutto le questioni sono due: risoluzione dell'azionariato del controllo di Edison e poi la riduzione del debito. Per questo si è preferito ancora vendere il titolo, e diciamo che anche sul titolo è arrivata poi un'altra indicazione negativa, che riguarda una società partecipata, cioè in particolare Edison, che oggi ha dato... poi ne parleremo con Quadrino, con il numero uno di Edison, l'utile in calo, il 30%, no? E questo si è avuto effetti, certo, anche su A2A, naturalmente. Allora, Finmeccanica meno 4%, già viene da sedute molto pesanti. Sì. Le allarmi una volta, cioè, nei giorni scorsi, erano sugli investimenti nel settore difesa, che chiaramente con questa crisi, a parte Afghanistan e qualche altro conflitto in giro per il mondo, possono ridursi. E oggi? Sì, certamente, diciamo che ancora una volta sono questi ragionamenti che le case d'affari e di conseguenza poi i trader e i gestori fanno. In particolare oggi Goldman Sachs ha fatto un po' una riflessione su quelle che possono essere la riduzione degli investimenti in difesa, sia per quanto riguarda l'Italia, sia per quanto riguarda ad esempio il Regno Unito, dove Finmeccanica è esposta, e su queste riflessioni ha preferito alleggerire la posizione sul titolo. Il report no. Andrei, report, ormai abbiamo deciso di bandirli da questo programma. Ho capito benissimo il ragionamento di Goldman Sachs, però ha consigliato di vendere, questo mi sta dicendo, che ha fatto un report sell. Certo. E vabbè, ma noi non ne vogliamo più sapere dei report per un po', poi torneremo anche a darli, ma finché non vengono chiariti i conflitti di interesse delle banche d'affari che emanano questi report, preferiamo, come hai fatto tu, ragionare proprio sulle visioni industriali. Allora, tra i titoli minori segnalo oggi Cell Therapeutics meno 26,7. Che succede? Per quanto riguarda Cell Therapeutics, è arrivata nel pomeriggio una brutta notizia dalla Food and Drug Administration, cioè dall'organo appunto che ha il compito di dare il via libera all'insione sul mercato dei farmaci. In particolare è stata bloccata la sperimentazione del Pixantrone, che è un farmaco utilizzato nella cura di particolari linfomi, si chiamano linfomi non Hodgkin, sono tumori maligni del tessuto linfatico. Ci sono dubbi sull'efficacia del farmaco e sugli effetti collaterali dello stesso, ecco perché il titolo oggi è stato pesantemente penalizzato sia sul Nasdaq, dove perde circa il 30%, e sia a Milano. Sempre tra i migliori, oggi troviamo, oltre a Intesa più 3,4, di cui abbiamo già detto, CIR più 3,3, Eni più 2,4%. Bene anche, meno bene, ma bene, Snam più 0,5. Eni. Per quanto riguarda Eni, diciamo che la pressione da parte del fondo Knight Vink che si sta facendo sempre più forte a proposito dello scorporo dell'attività del gas da quelle petrolifere, diciamo sta raccogliendo dei consensi. Oggi sui giornali e poi sulle agenzie è stata battuta una nuova lettera da parte di questo fondo, che è azionista di Eni, a proposito appunto proprio di questa strategia industriale che libererebbe risorse per quanto riguarda Eni e che probabilmente ne avrebbe anche un effetto positivo sul mercato. Eni già dalle parole di Scaroni della scorsa settimana era sembrata disponibile a parlare di una possibile riduzione, diciamo, dell'impegno in Snam Rete Gas e quindi propedeutica a uno scorporo dell'attività del gas. Ecco perché l'insistenza di Night Vink e i segnali di apertura di Eni hanno dato buoni risultati anche sul mercato. Eni ha fatto più 2,37 come tu ricordavi, ma si è comportata bene anche Snam Rete Gas, che ha fatto più 0,5%. Sì, il fondo che partecipa, che ha quote di Eni, sostiene che si libererebbero risorse per 50 miliardi di euro. Mi chiedono gli ascoltatori perché non parliamo più di Telecom, perché parliamo dei titoli quando c'è notizia. Oggi obiettivamente Fiat ha fatto più 0,40, Telecom vado a riprenderla, ma ha fatto 0 a 1,05 euro, ecco perché non la vedevo. Insomma, non parliamo di titoli che si sono mossi poco. Ancora in una battuta le CIR, perché abbiamo 20 secondi, più 3,3. Per quanto riguarda CIR è tutto un rimbalzo, aveva fatto diverse sedute di ribasso, questo è stato il miglior titolo del 2009, dopo un ribasso così significativo ha perso quasi 50 centesimi, oggi giornata di rimbalzo, ha guadagnato il 3,3%. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Volete, tramite gli sms al 349-238-6666, altri titoli di borsa? Abbiamo dato i principali, comunque Geox più 2,3, Mondadori più 2,2, Tenaris più 1,70, Fondiaria più 1,40, Generali più 1,1, Enel più 1% come Prismian. I bancari, tra i bancari che sono andati bene c'è anche UbiBanca più 0,6, Snam e Fiat, come dicevamo, mezzo punto percentuale di rialzo, così come Terna. Tra i bancari che invece sono andati male, citiamo soprattutto Unicredit meno 1,5, Banco Popolare meno 1,3, Monte dei Paschi meno 1%, Popolare di Milano meno 0,7, negativa anche in pregiro del 2,7, Saipem del 2,8%, l'automatica meno 2,2%. Adesso, visto che è terminata ieri la 109ª edizione della Fiera Agricola, noi ce ne siamo occupati con il presidente di Confagricoltura Zaia per la polemica, Vecchioni per la polemica con il ministro Zaia proprio sugli OGM, Confagricoltura a favore, il ministro Zaia nettamente contrario, però in realtà è terminata un'edizione che ha visto crescere, visto che parliamo sempre di numeri negativi, i numeri di operatori ed espositori. In un settore che ha visto cali della produzione, del fatturato industriale come agricoltura intorno al 18% l'anno scorso, cali ancora nei prezzi della produzione agricola, chiediamo al presidente di Verona Fiera, Ettore Riello, buonasera. Buonasera a tutti voi. Come si è chiusa questa fiera agricola? Almeno ogni tanto noi una buona notizia la cerchiamo ogni giorno e lei oggi casca a fagiolo. La do con molta ragion veduta e tanta soddisfazione, si è chiusa veramente molto bene con una crescita importante del 7% che di questi tempi appare, anche se non sono due digit, appare invece di comunque grande soddisfazione, quindi superiamo quasi 130.000 visitatori e speriamo con questo di dare veramente un bel servizio a chi ha tanto bisogno, perché comunque i numeri del settore in questo momento sono ben diversi. Eh sì, sono purtroppo quelli che ricordavo io all'inizio. Una domanda, avete aumentato anche i visitatori stranieri e se sì da che aree geografiche? Ma molti visitatori stranieri superano più del 15%, quindi è stata una soddisfazione notevole e soprattutto anche provengono da paesi dell'area del Maghreb, del Nord Africa, anche della zona, diciamo così, della ex Unione Sovietica, quindi c'è stato sicuramente, diciamo, l'area mediterranea, il Medio Oriente, parte anche un po' dell'ex Unione Sovietica, sono state le zone che ci hanno dato più soddisfazione. Avete fatto anche un accordo con la Siria? Beh, pure Sì. Quindi ci sono effettivamente, diciamo, tutta una serie di iniziative anche per poter esportare. Uh-huh. Diciamo, l'accordo l'abbiamo fatto con Damasco, quindi con la fiera di Damasco, che consentirà così un ulteriore ponte di contatto con questi mondi che stanno sempre di più emergendo e che sono un'area di grande interesse. Quindi sì. Ma soprattutto la presenza di tanti buyer che provengono da 35 paesi esteri, che credo sia stata una grande opportunità e soddisfazione per tutti gli espositori. Beh, in bocca al lupo allora per le prossime fiere, e comunque fa piacere vedere che il settore, nonostante le fortissime difficoltà, lo dico anche a chi scrive, le abbiamo dette più volte, il fatturato in calo di due cifre, i prezzi della produzione in calo anch'essi, non quelli al banco. Beh, fa piacere vedere che comunque almeno si riesce a aggregare sempre un maggior numero di operatori, soprattutto esteri. In bocca al lupo anche per le prossime fiere, per quella a cui noi teniamo di più, anche per un conflitto di interessi, essendo bevitori, amanti del vino, non bevitori, il Vinitaly. Grazie a Ettore Riello, presidente di Verona Fiere. Molti di voi ci hanno scritto sul budget che la Ragioneria dello Stato, cioè il budget dello Stato italiano, oggi diffuso dalla Ragioneria dello Stato, pubblicato già sulle 24 ore giovedì scorso, se non ricordo, aveva dato le prime anticipazioni, nel caso specifico i tagli. Ribadisco, un miliardo di euro in meno per i fondi alla scuola, che comunque, quanto a voce istruzione, rappresenta la maggior parte di questi 92 miliardi che rappresentano il budget dello Stato. 44 miliardi infatti vanno all'istruzione, poi segue la difesa, 20 miliardi, un miliardo in meno, minori soldi anche per quello che riguarda le risorse del sistema dei trasporti e delle infrastrutture. E se ne è parlato, diciamo a margine, oggi della Mobility Conference, Mobility Exhibition organizzata da Assa Lombarda a Milano per l'edizione 2010, se ne è parlato, ne ha parlato la Presidente di Confindustria Marcegaglia, intervistata dal nostro Stefano Totolo, ha detto attenzione, sul fronte infrastrutturale, oltre che semplificare i meccanismi di gestione del consenso, quindi con gli enti locali, con tutti i vari poteri di veto, rendendolo più simile a quello degli altri paesi, c'è un indubbio calo delle risorse. Questi anni, dal 2005 ad oggi, gli investimenti in infrastrutture nel nostro paese sono calate e questo è un problema, e quindi noi abbiamo bisogno di una dotazione di finanza pubblica maggiore sulle infrastrutture, anche se alcune cose sono state fatte dal governo, ma abbiamo anche bisogno soprattutto di cambiare la burocrazia e le modalità di decisione e soprattutto di gestione del consenso delle infrastrutture. Noi ancora oggi siamo in una situazione in cui sul Corridoio 5, su tante altre cose, opere fondamentali vengono bloccate dai comitati del no. Quindi c'è un problema di soldi, ma c'è anche un problema di gestione del consenso e di burocrazia. Oggi io porterò una serie di proposte concrete che Confindustria fa proprio per accelerare questi meccanismi di decisione sulle infrastrutture. Beh, per esempio un utilizzo maggiore sui commissari straordinari con poteri però realmente speciali, un meccanismo di gestione del consenso come fanno altri paesi, dove si discute, si ragiona, ma poi per obbligo bisogna entro una certa data decidere sì o no. Non possiamo rimanere anni aperti in queste condizioni, una semplificazione per permettere una maggiore presenza anche dei fondi privati e del project financing, che il nostro paese appunto è argomento di convegno ma mai riesce ad andare avanti, e soprattutto una grandissima semplificazione serve, e questo è veramente il momento di farle. Tutti i paesi hanno usato le infrastrutture anche come, diciamo, investimento anticiclico per aiutare la congiuntura, noi non siamo riusciti a farlo. E poco fa è arrivata la replica del ministro Altero Matteoli, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha detto si può fare di meglio e di più e ci proveremo, ma ho la sensazione che la presidente Confindustria Marcegaglia abbia visto un altro film. Intanto è arrivata anche un accordo di massima al Torino-Lione al terzo valico, ha detto infatti il ministro Scajola, non c'è competizione tra la Torino-Lione e il terzo valico, le due opere sono nel programma del governo e vanno fatte entrambe perché necessarie allo sviluppo del paese. Però Scajola, che è intervenuto alla cerimonia di avvio dei lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Genova, ha detto se dovessimo essere obbligati a scegliere tra il corridoio 5, cioè Lisbona-Kiev, che per noi significa Torino-Fréjus, e il terzo valico ferroviario sulla linea Genova-Rotterdam, quest'ultimo sarebbe prioritario. Questa è una posizione interessante, perché avevamo sempre capito che fosse prioritario il corridoio 5, infatti poi Scajola ha precisato 20 minuti fa: attenzione, non ho mai detto come di essere contrario, di considerare secondaria la Torino-Lione, però insomma la dichiarazione è stata: se fossimo obbligati a scegliere per motivi economici, meglio la Genova-Rotterdam, quindi quello che si chiama il terzo valico, che non il corridoio 5 Torino-Fréjus, quindi Val di Susa e tutte le polemiche che ne sono seguite. Il traffico, e poi parliamo dei conti di Edison, che hanno tra virgolette penalizzato A2A, meno 4,3% oggi, peggior titolo. In realtà, al di là dell'utile, il margine operativo, quindi l'andamento dei conti prima delle tasse, è in linea con quello dell'anno precedente. Ne parliamo tra un minuto. Allora, ultima parte di Focus Economia, 349-238-6666 per i vostri sms. Dicevamo i conti che stiamo affrontando in questi giorni, oltre, ahimè, a tutte le varie manifestazioni di sciopero, blocco delle strade, operai che salgono sui tetti. Ci scrivono adesso che praticamente a Chieti la situazione è difficilissima, il gruppo Mancaferri avrebbe annunciato poi, questo è un altro tema, la chiusura di 3 siti industriali. Noi vi teniamo aggiornati ogni giorno, purtroppo non vorremmo dare questo bollettino. Comunque, Edison è quindi secondo operatore italiano nel settore energetico, ha il 16% del mercato italiano del gas e dell'elettricità, 27 centrali termoelettriche, 68 idroelettriche, 28 campi eolici, 5 miliardi e 2 di capitalizzazione e un giro d'affari di 12 miliardi. Oggi ha presentato i conti 2009. Tra l'altro Edison possiede anche il 40% di Edipower ed è controllata, lo dico come sempre facciamo, da Electricité de France che ha il 20%, Caro Tassara che ha il 10% e Transalpina di Energia. Ingegnere Umberto Quadrino, amministratore delegato di Edison, buonasera. Buonasera a voi. Allora, il mercato si è un po' preoccupato, almeno così abbiamo capito noi su A2A, per i vostri conti. Meno 30% l'utile, che scende a 240 milioni, tengono però i margini, la cedola, cioè il dividendo, l'utile che verrà distribuito agli azionisti, scende da 5 centesimi del 2008 a 4 centesimi e 2 di quest'anno. Utile meno 30, ma tengono i margini, come si può tradurre per chi ascolta? Ma diciamo, il mercato è quello che è. Nel 2009 ha avuto una forte flessione sia il mercato elettrico che il mercato del gas, meno 6,7% l'elettrico, meno 8% quello del gas. Allora, la buona notizia della Edison è che in un mercato così difficile ha mantenuto lo stesso livello delle vendite sia nella parte elettrica che nella parte gas, quindi con un grande sforzo di maggiore penetrazione commerciale, e quindi questa penso sia la più bella notizia dell'anno. Abbiamo mantenuto i nostri margini su basi comparabili tra il 2008 e il 2009, nonostante il forte calo della domanda, il risultato operativo è sullo stesso livello. Abbiamo pagato un dividendo che grosso modo è in linea con quello dell'anno precedente, nonostante il calo del volume di attività, nonostante il fatto che il prezzo del petrolio e quindi della nostra produzione petrolifera sia venduto ad un prezzo sostanzialmente più basso rispetto a quello dell'anno passato. Quindi insomma, contesto difficile, ma l'azienda bella reattiva, ha fatto una bella reazione e ha portato gli stessi risultati operativi dell'anno precedente. Una reazione non nucleare però. Diciamo. Allora, per quello che riguarda il 2010, che cosa vi attendete? Perché se ho ben capito ritenete che comunque anche il 2010 sarà un anno difficile. Ma guardi, di vere riprese della domanda elettrica e del gas ancora non si intravedono, c'è una migliore tendenza, diciamo che per il 2010 prevediamo forse un 1% in più di domanda elettrica e gas, ma quindi ancora lontani dai livelli pre-crisi. Ci vorrà tutto il 2010 e speriamo nel 2011 di vedere una ripresa più consistente. C'è quindi una sovracapacità produttiva sia nell'elettrico che nel gas, nell'elettrico in particolare continuano ad arrivare sul mercato delle nuove centrali. E per il gas abbiamo fatto il rigassificatore di Rovigo, ma anche il potenziamento dei collegamenti con la Russia e con l'Algeria. Quindi c'è molta più offerta rispetto agli anni passati e la domanda nel frattempo è calata in modo consistente. ricordiamoci che il più forte calo di domanda del dopoguerra. Sì, l'abbiamo dato come dato proprio del consumo elettrico del paese, mai dal 1946 era calato anno su anno il consumo elettrico su base, se non ricordo male, l'8% può essere, però vado a memoria. Dalla parte elettrica 6,7, dalla parte gas 8%. Perfetto, o meglio, questo è il dato. Un altro elemento, se poi arriviamo anche alla decisione che avete preso a livello di quella che si chiama corporate governance, cioè anche la gestione interna, e nel caso specifico gli stipendi e i bonus, però vorrei capire, ingegner Quadrino, forse faccio la domanda un po' da verginella, ma se cala la domanda e c'è un eccesso di capacità produttiva, dovrebbero calare i prezzi della bolletta? Come no, sono calati, come il prezzo dell'energia elettrica rispetto all'anno precedente è sostanzialmente più basso, stiamo parlando di un calo mediamente del 27% rispetto all'anno precedente, e per quanto riguarda il prezzo del petrolio 36% di riduzione. Penso che i consumatori se ne siano accorti. Allora, ultima o penultima domanda che ho per lei riguarda invece la decisione che avete preso sulla scelta di un tema che stiamo trattando da mesi, e nel caso specifico soprattutto riferito ai compensi dei banchieri d'affari, dei banchieri di Wall Street, della City, ma anche alcuni di casa nostra. Voi avete deciso di, non fate chiaramente i banchieri, ma di ridurvi lo stipendio. Potrei sapere di come, di quanto e anche perché? Innanzitutto la nostra preoccupazione è sempre stata quella di avere dei compensi allineati a quelli del mercato, quindi già quando è partita la collaborazione tra EDF e A2A era stato affidato ad una società esterna di consulenza una verifica di quelli che sono i prezzi di mercato dei consigli d'amministrazione e dei consiglieri investiti da particolari cariche, quindi del presidente e dell'amministratore delegato. E sulla base di questa indagine era stata fatta la prima determinazione. Dopo la crisi e dopo, diciamo, anche gli eccessi che ci sono stati durante la crisi, si è fatto una seconda indagine, quindi a 5 anni di distanza, si è nuovamente verificato se i nostri compensi erano in linea col mercato o se c'erano nel frattempo intervenute dei fatti nuovi. Il risultato è stato di questa indagine fatta da una società di consulenza esterna che ha preso in considerazione un panel di aziende italiane ed europee di dimensioni comparabili, è stato che effettivamente non eravamo sempre allineati alla media. Tuttavia il Consiglio di amministrazione, per tenere conto di una situazione congiunturale molto delicata, molto particolare, ha voluto dare un segno di moderazione e quindi il Comitato di remunerazione ha proposto al Consiglio, che ha fatto proprio, una proposta di riduzione del 10% generalizzata, quindi tutti i membri del Consiglio, il Presidente, l'amministratore delegato per quanto riguarda i compensi fissi, e per la parte variabile nella scala della variabilità, nella parte più alta della variabilità, fino al 25% per l'amministratore delegato. Quindi nel caso suo specifico, visto che di questo parliamo, meno 10% sulla busta paga, se così si può chiamare, sì, e meno 25% sui bonus? Sul bonus, sul massimo del bonus. E i vostri bonus, ma per curiosità, a cosa sono agganciati? L'andamento dell'azione, a quanti anni? Non abbiamo un sistema di stock option, perché il flottante è troppo poco per dare una vera significatività, potrebbero avere delle variazioni imprevedibili e impreviste, e quindi si è deciso di rinunciare ai piani di stock option che c'erano fino a qualche anno fa. E ci sono degli incentivi di breve termine e degli incentivi di medio termine che sono legati al raggiungimento dei risultati. Ogni anno il Consiglio di amministrazione stabilisce degli obiettivi che non sempre facili da raggiungere. Sulla base del raggiungimento di questi obiettivi, per l'alto management e giù per i rami, per i quadri della società, ci sono dei bonus che costituiscono una certa percentuale del trattamento fisso. Mi dica solo un'ultima cosa, ingegner Quadrino, sul fronte occupazionale a Edison stiamo tranquilli, siccome stiamo raccontando questo bollettino di guerra ogni giorno, fatto di imprese anche conosciute, oggi Antonio Merloni, Fincantieri, ma anche del petrolchimico di Gela, della Glaxo, di Gioia Tauro, di Eutelia, di Voice City, di Fonomedia, Novacente Magenta, Maflow, insomma. Sul fronte occupazionale 2010 che anno sarà per voi? No, non abbiamo problemi di questo tipo, direi che sul fronte occupazionale abbiamo incrementato leggermente l'occupazione in Italia per seguire l'espansione internazionale, poi nei conti consolidati c'è Abukir che ha portato un aumento di quasi 1000 persone il nostro organico, perché abbiamo consolidato una società in più. Però a parità di perimetro c'è un incremento dell'occupazione anno su anno e prevediamo per il 2010 di continuare sulla stessa strada. Allora, in bocca al lupo a Edison e ai dipendenti tutti di Edison. Grazie al ministro delegato Umberto Quadrino. E siamo in chiusura, vedo che alcuni di voi stanno scrivendo il costo dell'energia, non ce ne siamo mai accorti che sia calato. Allora devo dire che l'Authority per l'energia elettrica prevede nei primi tre mesi dell'anno un calo del 2%, che non è gran cosa. Ricordo però anche qui che purtroppo sulla bolletta elettrica il costo dell'elettricità pesa per un 50%. Il resto sono costi, tasse e altri costi impropri. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Berisone l'auguro di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.